Cialtroni nello spazio. E benvenuti all'ennesima puntata di Cialtroni nello spazio, l'attimo di approfondimento cultural tecnologico di Radio Nadurto. Riprendiamoci la tecnologia. Sei preparato bene stasera? Anche senza il tuo giochino della settimana scorsa che facevi parlare il tuo computerino. Puoi regolare i volumi delle cuffie se sono troppo alti, Marco. Un saluto a Marco, un saluto a Alessandro. Se Alessandro decide di farmi saltarvi le orecchie è un'altra questione. Bene. E salutiamo anche Alessandro in trasmissione con noi oggi. Ciao a tutti. E quali sono gli argomenti che andremo a vedere, a ascoltare? Allora, qualche news, aggiornamenti dalla Germania, la questione riguardante i geodati e una novità importantissima per Java. E andremo a fare un aggiornamento sulla questione del matrimonio tra Novell e Microsoft e un appuntamento di fine settimana con un aggiornamento sul progetto Indie Media. Un attimo che ci colleghiamo con un esponente di Indie Media che ci aggiornerà appunto su questo appuntamento del fine settimana, il sesto ritrovo degli attivisti di Indie Media in un momento in cui il progetto soffre di un periodo di stanca e di crisi. Visto che abbiamo qualche problema a collegarci, andremo a parlare un attimino delle ultime news di questa settimana, di questi ultimi giorni. Allora, partiamo da Java. Per chi non lo conoscesse, saranno la maggior parte probabilmente che avranno solo sentito vagamente parlare di Java. Java è un linguaggio di programmazione che permette di in sostanza di scrivere programmi che vadano automaticamente, quindi che non abbiano bisogno di una riscrittura, su tante piattaforme diverse, quindi sotto Windows, Linux, Mac OS X, Mac in generale. Ma non solo, permette non anche solo, di poter girare su telefonini, su architetture. Sui telefonini, infatti, una parte degli ascoltatori probabilmente non avranno sentito parlare di Java esclusivamente come caratteristica del proprio telefonino, senza peraltro aver mai provato a toccare questa funzionalità. Allora, Java è stato molto importante e ancora molto importante come linguaggio di programmazione. Faceva parte di quella cordata di tecnologie che si chiamava Middleware Technologies, che è stata fondamentale e anche fulcro di una di un'iniziativa dell'antitrust americana contro la Microsoft, che la Microsoft poi ha perso, anche se con molto ritardo. E quindi la notizia importante di questi giorni è la svolta che la Sun, l'azienda che ha sviluppato questa tecnologia in primis e che ne detiene sostanzialmente gli standard, ha deciso di liberare il codice di Java, di registrarlo sotto licenza GPL. Fino a questo momento era sotto una licenza proprietaria della Sun, che permetteva l'utilizzo gratuito e lo sviluppo di tecnologie senza alcun tipo di costo, però non permetteva di vedere il codice. Chiaramente la notizia ha influenza diretta sugli sviluppatori, però avrà anche delle ricadute alla lunga sugli utenti, in particolar modo sugli utenti appunto di software per cellulari, perché se ne esistevano soprattutto nel mondo Linux o comunque dal mondo open source esistevano delle varianti open source o free software di Java in generale, non esisteva una variante open del Java ridotto, quello che va sui cellulari, perché chiaramente non può essere pilotato da un processore molto piccolo come quello dei cellulari. Quindi notizia importante soprattutto per gli sviluppatori, ma vedremo cosa ne accadrà in futuro. Ah, intanto siamo riusciti a collegarci con Giorgio per parlare dell'altra notizia importante di oggi, ovvero che Indie Media torna all'asilo, un modo un po' scherzoso di parlare di questo decimo meeting che si tiene degli attivisti di Indie Media. Giorgio, il telefono con noi, ciao Giorgio innanzitutto. Anzitutto un saluto a tutti voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Andaburto. Allora, un meeting che si tiene dal 17 al 19 di novembre presso l'asilo di Via Alessandria. Sì, l'asilo occupato di Via Alessandria 12 a Torino. Allora, volevamo chiederti innanzitutto di presentarci un po' il programma di questo decimo meeting. Beh, guarda, il programma di questo decimo meeting è sostanzialmente sono 3 giorni di dibattito serrato su quello che è Indie Media allo stato attuale, su quello che sostanzialmente deve diventare nel momento in cui siamo in un momento di rinnovamento, diciamo così, nel senso che sono successe alcune cose per cui noi adesso dobbiamo spostare i nostri server dal posto dove erano prima, perché prima erano in quello degli Stati Uniti pagati da un'associazione filantropica, adesso non possiamo più fare così e quindi stiamo pensando comunque come ridistribuire, anche come far rinascere in questo senso di media anche in una nuova forma. Quindi non si tratterà ovviamente solo di problemi economici o come risolvere questo punto, penso che ci siano anche delle discussioni più sul modo di fare Indie Media, che forse nel corso degli anni è cambiato o forse è rimasto uguale in un mondo che cambia. Sì, diciamo che il modo di fare Indie Media comunque è cambiato nel corso degli anni, nel senso che dal decimo meeting e dal 2001 con Indie Media le cose sono cambiate tantissimo, nel senso che Indie Media è partita da un momento in cui non la conosceva praticamente nessuno, adesso siamo arrivati a consumare la bellezza di un terabyte di banda, di avere un numero di accessi enorme praticamente, per cui c'è anche da discutere di quello che deve essere il futuro, nel senso che obiettivamente comunque noi ci poniamo questo problema anche in vista anche considerazione del fatto che dal 2004 che non c'era più stato nessun meeting e dal 2004 che nessuno si era mai posto comunque il problema di cosa fare di determinate cose di media, fermo restando comunque alcuni punti fermi che sono l'open publishing piuttosto che il fatto che nessuna notizia, anche anche quelle che sono considerate open policy, ovvero sia le news razziste, fasciste e sessiste, vengono eliminate e vengono trasformate soltanto in una parte che si chiama hidden, che è la parte nascosta di Indie Media. Noi quindi abbiamo questo punto fermo che l'open publishing è l'anonimato totale da parte degli utenti che navigano su Indie, che non hanno e non avranno assolutamente gli IP tracciati. E però comunque riteniamo anche che in un mondo che cambia, in un mondo in cui soprattutto su internet se non ci si innova non si riesce a ottenere praticamente nulla, riteniamo importante comunque riuscire a ripensare anche quella che sarà la forma mentis Indie Media per quanto riguarda il futuro. Sì. E naturalmente invitiamo tutti a venire, chiunque vuole dire la sua, chiunque vuole fare una proposta costruttiva per quanto riguarda il futuro e quant'altro di Indie Media, tutto ciò che ne verrà fuori, lo invitiamo a fare un salto all'asilo occupato in questi giorni, perché comunque le discussioni riguardano tutta la comunità e quindi anche chi naviga il sito, anche chi lo frequenta. Senti, un'ultima battuta, quando è nata Indie Media era un po' un insieme di nodi locali che mettevano poi in essere un coordinamento nazionale e comunque un progetto molto condiviso che aveva anche delle forti radici sul territorio, il giro degli ACLAB e della sì, esatto, comunità ACM Meeting, piuttosto che non centri sociali delle vecchie ECN, pertanto per intenderci. Pensi che sia ancora così o che sia un modello superato o che sia stato superato nei fatti perché non c'è... Ma guarda, ti dico, quando il mio media è nato aveva una forma completamente diversa per il fatto che comunque era legata molto di più di adesso al cosiddetto club, ovvero sia in posti in cui la gente si trovava e condivideva tutte le sue informazioni per quanto riguarda un uso consapevole e per ciò che diventa anche antagonista delle proprie macchine. È cambiata perché comunque c'è stato anche un processo di distacco in questo senso, e anche i legami con il territorio in alcuni casi sono evoluti, per cui alcune persone di media hanno partecipato comunque a esperienze, nell'ambiente caso di Torino, per cui alcune esperienze di lotta, di movimento comunque sono finite sugli media, sono state monitorate in maniera costante. In altri casi diciamo che alcuni nodi sono decaduti, diciamo così, nel senso che comunque alcune persone che non ritenevano di continuare la cosa hanno deciso comunque di lasciare un pochino allo stesso modo. Ripensare in questo senso di media come vorremmo fare significa anche per certi versi migliorarsi, tagliare i rami secchi e pensare comunque a quello che deve essere il futuro. Venerdì, sabato e domenica presso l'asilo occupato di via Alessandria 12 a Torino. Giorgio, intanto noi ti ringraziamo, poi magari ci sentiremo anche per un bilancio. Va benissimo, grazie mille e buona serata. Ciao, a presto. Ciao. Angolo musicale di musica autoprodotta o sotto licenze Creative Commons, che cosa ci aspetta oggi? Siamo nelle radici bresciane. Esatto, siamo esattamente nelle radici bresciane e ribelli. Allora, si tratta del Roots Rock Rebel, è un album autoprodotto di diciamo gente conosciuta, insomma comunque l'album... Ho suonato diverse volte anche la festa della radio, al centro sociale Magazzino 47. Vabbè, loro fanno punk rock, direi che con questo album decisamente fanno un salto di qualità. La registrazione non è perfetta, ma è già di un buon livello, considerando che è stata fatta con come strumentazione abbastanza basilare. Andiamo a sentire il pezzo che secondo me è più interessante, un po' più innovativo, nel senso che non si limita in sé al punk rock, ma mischia un po', insomma, uno spezzare di tempi interessante. Allora, l'album si chiama Soli su una croce, Roots Rock Rebel, e andiamo ad ascoltare il pezzo Nelle tempeste d'acciaio. Per chi muore senza un nome, sulla parte opposta il volto oscurato dalla televisione, ecco quello il buon nemico. Dollari, potere, religioni, pozzi e bombe guidano al verde, grigio, verdi, colonne, palazzi centrati, lo schermo ancora in fiamme, terre di nessuno, zombie uniforme. Sempre guerra, al caos la disciplina, volano bottiglie e manganelli, botte grida, sono sempre meno quelli che scendono in strada, per un fottuto aumento salariale in busta paga, stanno a vegetare e comprano illusioni, una dopo l'altra si catenano da soli, viene accucito addosso il loro sguardo inerme sui prestacci dei ragazzi dagli zombie uniforme, qui non si vive. troppo rumore, rosso del sangue, disperazione, avete violentato anche le macerie, Dio è morto, quindi tutto è permesso, dove vado? Se si spari ora ci si spari adesso, nelle ventate di un acciaio. Ci pure con le vostre parole, menzogne e discorsi, armi di distruzione. Qualcuno che ci casca va a ingrossare le file, di chi è pronto al sacrificio, di chi è pronto a partire. Li avete rasati, messi tutti in riga, mitra alla mano, addosso una divisa. Giurano di credere, di obbedire, sanno già da ora chi devono sparare. Morfina per non sentire dolore, si diffondono nei corpi, sparate nelle vene, per perdersi nel nulla, accecarsi e poi buttarsi a capofitto nel fondo e negli oblii, colpevoli di aver strappato gli aghi dalle braccia, squarciato gli occhi e rotto il silenzio delle bocche, colpevoli pagate anche per chi ha preferito tenersi in loro d'aria per poter rimanere schiavo. Qui non si sente altro che rumore, rosso del sangue, disperazione, avete violentato anche le macerie, Dio è morto, quindi tutto è permesso, dove vado? Ci si spari ora, ci si spari adesso, nelle tempeste d'acciaio. Ma che vi servirà? Per gli ultimi degli ultimi non c'è riscatto. Credi ciecamente l'infinito e l'immortale, questo supera il prezzo del tuo tormento. Occultatori, complici, assassini, il potere vince sempre, il potere è violenza. Non ti ribellare, presto sarai tra i primi, una mano ti chiude mentre l'altra ti schiaccia. Qui non si vive, troppo rumore, le vostre va oltre, disperazione, avete violentato anche le macerie, Dio è morto, quindi tutto è permesso, dove vado? Ci si spari ora, ci si spari adesso, nelle tempeste d'acciaio. Yeah! dopo questa botta di vita che arriva dai Roots Rock Rebel, torniamo a parlare di informatica, torniamo a parlare di accordi, contratti e insidie che arrivano a volte nel mondo del free software e del mondo dell'open source. In particolare, la settimana scorsa avevamo iniziato a parlare di qualcosa che avrà delle ripercussioni notevoli, ovvero l'accordo tra Microsoft e Novell. Vogliamo sintetizzarlo un attimo, Marco? Beh, l'accordo è... E poi magari anche dare l'aggiornamento. Allora, l'accordo si basava appunto sul fatto che Microsoft dava un sacco di soldi a quelli di Novell, che sono i produttori di SUSE Linux, e questi in cambio facevano un po' di cose probabilmente per la Microsoft, a cui decidere di accettare i loro brevetti, dichiarare che... poi c'è la dichiarazione congiunta Microsoft e Novell che diceva che non avrebbe, la Microsoft non avrebbe intentato azioni legali verso gli utenti di SUSE Linux e coloro che utilizzavano il software prodotto da quelli di SUSE Linux. Insomma, creava un sacco di scompiglio nella rete. Era un patto di disistenza, sostanzialmente, che crea un po' una rottura all'interno delle varie distribuzioni e società che producono software per Linux, perché insomma, in qualche modo è scendere a patti col nemico non sempre ben visto, insomma. Infatti un articolo appunto che volevamo citare è appunto il un messaggio mandato dagli sviluppatori di Samba. Samba è un tool di condivisione di file che fa il verso alla condivisione di cartelle stampanti di Windows. Precisare un po' meglio, Samba era uno strumento usato più che altro dagli amministratori per permettere uno scambio di informazioni tra Windows e Linux. Quindi era uno strumento, è ancora uno strumento molto importante per le situazioni multipiattaforma. E appunto il team di sviluppo di Samba disapprova con intensamente appunto questa azione legale appunto intrapresa dalla Novell, e citando appunto il fatto che l'accordo sui brevetti tra Microsoft e Novell è un accordo di divisione che appunto porterà a una differenziazione tra gli utenti sul fatto che abbiano ricevuto o meno il loro software da Novell o da qualcun altro, nonostante che, indipendentemente da chi questo software lo vada a scrivere. Quelli di Novell, quelli di Samba appunto dicono a quelli di Novell che loro di Samba sono i fornitori di Novell, perché Novell alla fine non è che abbia fatto molto a parte comprarsi l'open SUSE e qualcos'altro, per cui insomma. Sì, perché come tutte le distribuzioni, ovviamente anche Novell quando distribuisce SUSE Linux all'interno ci sono Apache, software come Samba e tutti gli altri software sviluppati dalla comunità del free software che continua a rilasciare sotto le licenze GPL, e quindi questo, da un certo punto di vista, Samba è come dire: ma come, voi prendete qualcosa che noi facciamo e voi fate patti con Microsoft, e soprattutto anche fanno notare il fatto che questa loro mossa va a scardinare l'opposizione che fino ad oggi c'era da tutta la parte del mondo open source all'introduzione dei brevetti software, soprattutto ora pensando alla situazione europea dove si è in una fase di impasse con le major che stanno spingendo per far passare questi brevetti, e appunto anche questa mossa di Novell va contro la GPL, e anzi questi di Samba dicono che probabilmente le loro mosse dovranno andare poi a risolvere in tribunale, perché appunto la GPL è la licenza con cui viene distribuito gran parte del software libero, è decisamente forte ed ha già vinto delle battaglie in tribunale. Quindi insomma la posizione del team di Samba è nettamente contro questa mossa di Novell. Un altro articolo che citiamo dell'opinionista, scusami Ale? No, vabbè, va a fare un discorso finale. Allora, che è, lui lasciamo l'editoriale della trasmissione. Un opinionista di PC Magazine abbastanza famoso, che si occupa sempre di questioni del software libero, John Dvorak. Appunto, è famoso anche per tante altre cose, pare. Per la maledetta tastiera che usa GH. No, quella è un'altra storia, però. quella è stata inventata da un suo omonimo. Non è lo stesso. Non è lo stesso. Ok, allora. E appunto questo Dvorak cita il fatto che questa mossa della Microsoft, secondo lui, è da vedere in collegamento appunto con la recente mossa della Oracle. Oracle è un'azienda leader sul mercato che produce database, database server, ovvero database server, no? Nient'altro. Per dire, grossi sistemi di gestione di dati, soprattutto a grosse industrie, no, soprattutto verso imprese medio e medio grandi. Oracle Databases, cioè lo dice il nome. Vabbè, stavo impantanando in un discorso. Appunto, la Oracle ha deciso di entrare in con una fare una joint venture, non una joint venture, ma insomma di mettersi d'accordo con quelli di Red Hat per la distribuzione di supporto di servizi attraverso Oracle e di Red Hat attraverso Oracle e di Oracle attraverso Red Hat, insomma si sono messi d'accordo. E questo probabilmente ha spiazzato la Microsoft, che si trova a questo punto con un sacco di aziende, grosse aziende del software, chiamiamolo chiuso, che si stanno alleando con Linux, con di varie distribuzioni di Linux. E quindi la mossa della Microsoft è stata appunto quella di cercare probabilmente di entrare anche lei in contatto con una distribuzione Linux per riuscire a arrivare a entrare nella quota del mercato Linux. Infatti il mercato Linux è il sistema Linux sono molto ben visti, soprattutto per quanto riguarda il punto di vista server, e quindi la mossa della Microsoft appunto è condivisibile da questo punto di vista. Tra l'altro l'opinionista va oltre e cerca di capire quali saranno probabilmente le prossime mosse della Microsoft, e appunto secondo Dvorak la mossa della Microsoft sarà quella di cercare di creare degli oggetti software, degli barbatrucchi software, in modo da permettere di far funzionare i vari software Microsoft all'interno di Linux in una maniera altamente ottimizzata, in modo quindi da andare a entrare con il suo nome e i suoi prodotti all'interno del mondo Linux, però restandone il più lontano possibile dalla licenza GPL, che è appunto quella del software libero. E quindi insomma probabilmente questa mossa è quella per creare questi barbatrucchi per riuscire a entrare nella quota di mercato del software libero, senza però venirne tra virgolette sporcato. Ricordiamo infatti che la GPL è una licenza molto forte, che in particolari casi può, se utilizzata male, tipo ad esempio da gente che incorpora codice GPL all'interno del loro software senza troppa cura, appunto già in alcune situazioni preesistenti in tribunale si è arrivati alla vittoria della causa da parte della Free Software Foundation, ovvero sia da coloro che hanno inventato la GPL, con il risultato di rendere il software che era stato collegato a questa libreria GPL libero. E a quel punto questa mossa non piacerebbe molto a Microsoft, tipo perdere il suo sistema operativo perché un giudice ha detto: ah, vi siete collegati con i vostri sistemi alla GPL. E quindi probabilmente questa mossa di Novell è da vedere anche da questo punto di vista. Insomma, non possiamo dire ancora dove porterà questa strada, e c'è solo da aspettare, vedere, cercare di capire. Noi comunque cercheremo di tenerci sempre aggiornati su questa vicenda. E su questo tipo di vicende andrà a influenzare moltissimo anche la questione della GPL3, che appunto nel suo aggiornamento cerca di mettere un freno anche a questo tipo di utilizzi, nella fattispecie, appunto, almeno nello scenario paventato dagli ideatori di Samba, l'inclusione di codice aperto in una distribuzione che fa di alcune componenti proprietarie delle componenti fondamentali, cosa che tra l'altro ha già fatto anche Red Hat con il suo software di update. Quindi sono tutte mosse dei grandi big, chiaramente il risultato si vedrà tra un po', però insomma si sta già muovendo, e questo dovrebbe far riflettere anche sulle evoluzioni della GPL in generale, del mondo del free software. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, ancora un paio di news velocissime così. In Germania che cosa accade? Al contrario di quello che succede in Italia, gli utenti possono far cancellare i log, una decisione che fa un po' discutere, ma viene dall'alta corte federale tedesca, viene riportata dallo Spiegel Online, probabilmente uno dei settimanali più famosi del mondo, ed è una sentenza secondo cui l'utente internet ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati di traffico al proprio provider. Magistrati che si sono trovati di fronte al caso di un utente, Holger Voss, che era stato denunciato perché aveva dichiarato, aveva pubblicato in forum dichiarazioni che erano ritenute incitamento a delinquere. Da quell'accusa Voss è stato assolto, ma era rimasto indignato dal fatto che T-Online, il maggior provider tedesco, aveva dato libero accesso di tutti i propri dati di navigazione, in modo che era stato possibile tracciare l'autore di quel post e dunque denunciarlo. E allora c'è stata la... diciamo così, la causa legale. L'alta corte ha dato ragione a questo utente e ha sostenuto che la cancellazione di quei dati è un suo diritto secondo l'attuale legge tedesca sulle telecomunicazioni, e quindi è stato imposto addirittura al provider di non registrare alcunché delle navigazioni di questo tizio, nemmeno il volume del traffico internet generato dall'utente, che dispone di una tariffa flat. E ora la via è aperta per tutti i tedeschi che decideranno di far valere questo diritto. È già tra l'altro disponibile per gli utenti tedeschi il modulo, il modulo appunto per da compilare per richiedere l'eliminazione di tutti i dati da parte del loro provider. E complimenti alla Germania, visto che in Italia invece è proprio il contrario, perché è obbligatorio per tutti gli internet provider la registrazione sia dell'utilizzo che delle sessioni di connessione, quindi una tracciabilità totale degli utenti, questa imposta dallo Stato. E insomma sono differenti vedute, come dire. Anche se purtroppo non è da per completezza di informazione, c'è da dire che in Germania non è ancora stata recepita la direttiva sulla data retention, che è una normativa europea che impone la conservazione di tutti i dati delle attività internet per almeno 6 mesi, e questo recepimento, che dovrebbe arrivare attorno alla metà del prossimo anno, probabilmente potrebbe essere ribaltata la situazione attuale proprio con l'applicazione della direttiva europea. Parte la sigla. E con questo chiudiamo la trasmissione di oggi, ricordando radio.circolab.net, il nostro sito internet. Oppure radio@circolab.net, che è più importante, che è la mail per contattarci. Scriveteci. Questa sera al circolino. Alle ore 20 circa, 8 e mezza, 9, probabilmente a 9. Circolab si deciderà la futura apertura, la sorte del Circolab. Quindi se volete, via Fratelli Bandiera numero 12A oppure C o B o... il numero non è importante, voi venite lì, ci troverete. Tra poco aggiornamenti sulla situazione del Circolab, tra poche settimane insomma, perché conosciamo i tempi insomma, vabbè, geologici. A mercoledì prossimo.